che mi è capitato di notare sulla stampa, particolarmente raccomandabile mi è sembrato quello sull'Avvenire, che a indignarsi per queste cose è impegnato d'ufficio, e il paginone del Corriere della Sera. Per la cui etica finanziaria, o per quella dei suoi padroni, fa lo stesso, qualsiasi operazione che non comporti dei sacrifici per gli altri va comunque esecrata. Eppure a pensarci bene, da indignarsi non c'era poi un granché, che un governo votato per sua natura all'azzardo, costretto com'è a puntare ogni giorno sulle desistenze di Bertinotti e le resipiscenze di Casini, non possa che rivolgersi al gioco d'azzardo per far quadrare i suoi conti, è un'osservazione troppo ovvia perché valga la pena di soffermarcisi più che tanto. Personalmente, in tema di gioco, ho trovato molto più disdicevole un'altra notizia, era su Repubblica del 1 novembre, quella per cui con un semplice provvedimento amministrativo attualmente all'esame della Corte dei Conti, che non dovrebbe avere difficoltà ad approvarlo, il Ministro delle Finanze ha portato a 12 il numero delle lotterie nazionali. Vedete, azzardo per azzardo, l'etica della roulette, che a chi azzecca un emplein, che ha una probabilità su 36, su 37 se si tiene conto dello zero, a chi azzecca un emplein assegna una vincita pari a 36 volte il piatto, mi sembra infinitamente preferibile a quella della lotteria, che ti promette miliardi, ma a un livello di probabilità tanto infinitesimale che non mette neanche conto calcolarlo. E poi la frequentazione dei casinò con i suoi riti, i suoi riferimenti letterari da Dostoevsky a James Bond è tutta un'altra cosa culturalmente parlando che l'acquisizione di biglietti della lotteria. È vero che il ministro Fantozzi, chi per lui, ha pensato bene di nobilitare da questo punto di vista anche le lotterie e le ha abbinate, oltre che ai tradizionali eventi sportivi e spettacolari, a manifestazioni di sicuro impegno culturale, come la mostra del cinema di Venezia, sia pure in coabbinamento con l'elezione di Miss Italia Salso Maggiore e il trofeo dei templi di Agrigento, che chissà cos'è. Per non dire del Festival di Spoleto o del Film Festival per ragazzi di Giffoni Valle Piana, ma la differenza resta. La lotteria, come a suo tempo l'otto, con cui è strettamente congiunta non solo nel nome ma anche nel meccanismo e nel fatto che dipende dalla stessa amministrazione, è più che una tassa sulla speranza, come si diceva una volta, è in sostanza una truffa, che permette di rastrellare una quantità incredibile di denaro in cambio di un montepremi che, commisurato ai ricavi che produce, è un'autentica miseria. Che il maltolto sia rastrellato a 10.000 lire per volta e non a milionate come nelle case da gioco classiche non mi sembra particolarmente rilevante. Ma il governo ha bisogno di soldi, riprende dove può, lotto e lotterie in sostanza sono cose da poveri, ma è abbastanza noto che si guadagna di più taglieggiando i poveri che facendo sborsare i ricchi. Appena un mese fa, se ricordo bene, qualche bello spirito ha motivato l'istituzione di un ingegnoso servizio telematico mediante il quale sarà possibile partecipare a vari giochi popolari a premio come il Totocalcio senza muoversi da casa, con la necessità di non escludere dal piacere di perdere la camicia anche gli anziani, i malati e i portatori di handicap. In un emendamento al decreto di legge da cui siamo partiti, è prevista, se non sbaglio, anche l'ipotesi di legalizzare le scommesse clandestine sulle attività sportive. Come si faccia a legalizzare un'attività clandestina non lo si dice mai, e a me non è chiarissimo. Suppongo che il concetto sia quello di permettere a chi l'esercita già di continuare ad esercitarla purché si metta in regola, come si dice, versando al fisco l'imposta dovuta. Il gettito del primo anno, secondo i giornali, potrebbe girarsi già sui 150 miliardi. Ecco, considerando chi è che attualmente gestisce le scommesse clandestine, qualcuno potrebbe anche trovare nel progetto qualche motivo di preoccupazione. Ma l'unico timore del ministro Fantozzi, come ha spiegato il senatore Palombi, che non lo saprete ma è il capogruppo del CCD al Senato, nonché il presentatore della proposta, l'unica preoccupazione ministeriale è che la liberalizzazione possa sottrarre il gettito ad altri giochi. Stando così le cose, altro che paura di restare esclusi dall'Europa, il futuro delle finanze italiane è destinato a fare invidia a quello di quelle svizzere. Ci sono in tante altre attività in questo nostro paese che producono fior di reddito senza che la comunità possa goderne della debita parte solo perché non sono legali. No, nella prossima manovra aggiuntiva, quella così cara al ministro Fazio, al governatore Fazio, si potrebbe cominciare, non so, col tassare la prostituzione. e poi procedere con i sequestri di persona, il traffico di manodopera clandestina e via andando. In caso di necessità estrema si potrebbe studiare il modo di far pagare l'IVA alla mafia, insomma. E a chi mostrasse delle indebite preoccupazioni morali sarà sempre possibile ricordare la risposta dell'imperatore Vespasiano a quel guastamestieri che riteneva sconveniente che si imponesse un tributo sull'uso di quei servizi pubblici che da allora in poi avrebbero portato il suo nome, il nome di Vespasiano, no? L'imperatore, come ricorderete dalla vostra lettura di Svetonio, prese una moneta, la mise sotto il naso del suo interlocutore e gli disse: non olet, non ha odore, il denaro non puzza mai. A puzzare, oggi come allora, sono tutt'altre entità.